Allora abbiamo un'altra corrispondenza in diretta, in questo caso finalmente abbiamo modo di ascoltare gli studenti, che era un po' il pezzettino che ci eravamo persi da stamattina, anche con un po' di preoccupazione. E allora ciao, speriamo che state bene, dove siete in questo momento? Sì, ciao a tutti e tutte, noi siamo benissimo, abbiamo proseguito il corteo, volevamo provare ad accamparci a Colosseo come avevamo detto, ma era impraticabile. Ci pare proprio di sì in questo momento. Chiaramente sono stati imponenti e gli scontri continuano. Noi adesso siamo su Piazza Aventino, siamo all'altezza di Piazza Albania, stiamo andando a Piramide e quantomeno in quella piazza proviamo anche a contarci con tutto il resto del corteo, dietro di noi c'è l'USD. E davanti ce n'è un gran bel pezzo, vi avvisiamo, eh. Davanti abbiamo, sì, abbiamo il camion del Ministero dell'Alternativa, il camion del Teatro Valle occupato, insomma, non siamo assolutamente pochi, però è veramente difficile trovare un punto in cui radunarsi e poter capire cosa fare, perché chiaramente sono stati imponenti, volevamo andare a Circo Massimo, ma anche lì era bussato. Da un lato ci arrivano le notizie di quello che sta succedendo a San Giovanni e non ne abbiamo il pieno controllo e dall'altro non abbiamo ancora un obiettivo, però sicuramente non vogliamo scioglierci così, insomma. Sì, no, chiaramente quello che succede a San Giovanni adesso si è un po' moderato, ma diciamo che va e viene un bel po' di delirio, affollate alterne di 5 minuti, quindi insomma non vi possiamo aggiornare particolarmente con certezza su nulla. Va bene, italindimedia.org vi ringrazia, magari se vi va vi richiamiamo più tardi, d'accordo? D'accordo, ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao.